Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. State per averne conferma quasi immediata, ma anche per questa terza parte di Eclettica avremo brani molto lunghi, perlomeno nella parte iniziale della trasmissione, quella che segue immediatamente l'incipit. Quando avvistava un autostoppista per la prima volta, Isserley non si fermava mai, si concedeva un po' di tempo per prendergli le misure. Quel che cercava erano i muscoli. Un pezzo d'uomo ben piantato sulle gambe. Di esemplari gracili, pelle e ossa, non se ne faceva nulla. A un primo sguardo, tuttavia, era incredibile quanto poteva risultare difficile notare la differenza. Si potrebbe pensare che un autostoppista solitario, fermo al bordo di una strada di campagna, sia visibile per almeno un chilometro, come un monumento lontano o un silos per le granaglie. Si potrebbe pensare di riuscire a esaminarlo con calma mentre si guida, di spogliarlo e rigirarselo nella mente con anticipo, ma Isserley aveva scoperto che non era così. Questo era l'incipit di Sotto la pelle di Michael Faber. Thank you. eclettica. There are no brothers. You have good friends. You have a lover. When friendships end, you will still love her. But it's Teresa that you love the best. Swam for her daughter. 1,000 people did what they could. They found a steeple and tore up the wood. 500 pieces means 500 foot. 1,000 people means 500 dogs. Teresa, the best. I've said it before, and I'll say it again. All fires have to burn. Sono una band completamente nuova, anche se i membri provengono da altre formazioni. Sono stati anche oggetto di pillola in settimana e si chiamano Swan Lake. Ce li siamo ascoltati con All Fires, in uscita il 21 di novembre per la Jaguar. Visto che ho parlato di altre formazioni, ve le do anche. Per esempio Daniel Behar lavora per Destroyer and Pornographers, Spencer Krug per Wolf Parade, Sunset Rapdown e Kerry Mercer per Frog Eyes. Invece, in apertura di Eclettica, a confermare la tradizione della settimana dei brani lunghi, ben più di 12 minuti di Mono and Words and Girlfriend. Mono è un gruppo giapponese e Words and Girlfriend invece è un compositore di musica elettronica altrettanto giapponese come loro. Un disco dal titolo Palmless Prayer Mass Murder Refrain, composto da 5 parti, e noi ci siamo ascoltati proprio la parte numero 5. Visto che abbiamo ascoltato un brano oggetto di pillola, raddoppiamo. Altro brano oggetto di pillola in settimana, un brano italiano, un brano che esce per Radio Fandango, l'etichetta legata alla Fandango, di cui conosciamo libri, di cui conosciamo film, di cui stiamo cominciando a conoscere musica. Avevo letto un'intervista a Procacci in cui parlava anche proprio di una vera e propria emittente radiofonica che era fra le sue idee. Nel caso, io comunque preparo il curriculum. Virginiana Miller, Dispetto, da Fuochi Fatui d'Artificio. Tu ci creda. There that goes. Whoa. Oh, geez. God bless the internet. Ay, ay, ay. Do it. Take it off. Oh, my God. Oh! Oh, thank you, God, for this wonderful, wonderful day. And she takes her vitamins. Thank you. E con gli Oxford Collapse siamo quasi arrivati anche alla chiusura della terza parte di Eclettica di questa settimana. Vi voglio ricordare, oltre a quanto già detto per Sign, Ben e due concerti di Bologna e Firenze, concerti gratuiti ma da cui potrete tornare anche con il loro disco se scrivete a giulio@radiorockfm.com, vi voglio ricordare il concerto allo Zero Music Club del 3 di novembre degli Okkervil River assieme agli Hogwash, anche qua ci andate gratuitamente grazie a Eclettica. Vi lascio con quello che è l'ultimo brano di quest'oggi, lui è Erland Ropstad. I would have had my chance to tell her, don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. If I had only had her number, I would have called her up and talked to her. She could have told me how she's holding up. We would have talked about the days we had not long ago. And we were all so young, you know, we did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young enough. I know now we know now. We know now. Fine della terza parte.